Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera a tutti. Milan e Inter hanno un sogno: essere come l'Everton almeno per un giorno, o meglio per una notte. L'Everton che, dopo aver battuto il Chelsea una settimana fa, oggi ha battuto il Manchester United 3-1. Punteggio che al Milan peraltro piacerebbe molto nella gara di ritorno. Tra l'altro, nel rimonta dopo il gol dei Red Devils segnato da Berbatov. Adesso è in campo il Chelsea invece, partita che sto guardando per voi, partita che interessa da vicino chi ti fa Inter soprattutto, o come scrive oggi qualcuno, insomma, invocando un tifo di unità nazionale, perché abbiamo bisogno di far strada in Champions League dopo anni di vacche magre, con il rischio di perdere anche il quarto posto nel campionato, nel torneo più bello che c'è. Ebbene, il Chelsea sta vincendo 1-0 sul campo del Wolverhampton. Il gol lo ha segnato il solito Drogba dopo 40 minuti di gioco. Se vincesse questa partita, allungherebbe a più 4 sul Manchester United nella classifica di Premier League. Dunque Milan e Inter hanno un sogno. Intanto Mourinho ha acceso i fuochi ieri, lo saprete, intorno all'accampamento nerazzurro. Oggi sono arrivate le sassate di risposta che tra poco vi faccio ascoltare. Poi vorrò anche sentire le vostre voci, le vostre opinioni. 800 24 00 24 numero verde, messaggi SMS 349 238 6666. Per rinfrescare la memoria, un passaggio delle dichiarazioni di ieri di José Mourinho, le più significative. Italia non ha fatto un'altra cosa che parlare di Fiorentina-Bayern. E penso che i professionisti della Fiorentina meritano che si parli di questa cosa qua. Però in questo momento, perché non diciamo tutti, guardiamo a casa nostra e non parliamo di questo. Parla solo Prandelli di questo. Perché ragioni in quello che succede nel calcio italiano, dobbiamo tutti fare come quell'animale che io non lo so dire il nome in italiano, che mette il struzzo là, perché ragione dobbiamo fare questo. Coerenza sì. O no coerenza? Se oggi il signor Betega dice tutti zitti, non si può parlare di Fiorentina-Bayern, perché di Fiorentina-Bayern solo può parlare Rummenigge, Van Gaal, Prandelli e Della Valle, siamo coerenti e tutti zitti. Però aria con 25 metri c'è solo uno in Italia. A me diverte moltissimo, mi diverte moltissimo Mourinho, mi divertono moltissimo tutti quelli che se la prendono in maniera infernale per queste schermaglie dialettiche, per questi giochi dialettici di Mourinho. Oggi, dicevo, sono arrivate le varie risposte. Come avete sentito, Mourinho ne aveva per la Juve, per la sua area lunga 25 metri, ma ne ha avute anche per la Roma e i suoi pianti sul mercato. Quando vogliono prendere un giocatore piangono perché non hanno i soldi, però quando gli chiedi un giocatore, parentesi Julio Bautista, poi non te lo danno e allora sono furbi loro. Ranieri oggi ha detto questo. Posso dire che capisco lui, che non si è mai trovato in queste situazioni. È troppo facile passare da Abramovic a Moratti. Troppo facile passare da Bravo Chamoratti, dice un suo vecchio amico, un vecchio amico di Mourinho come Claudio Ranieri. Zaccheroni ha altri pensieri e non è entrato nel gioco. Io credo di avere tanti quei problemi da risolvere, da non potermi permettere di distrarmi, quindi la mia attenzione rimane qui. Due, non faccio l'opinionista. Tre, la federazione non mi ha minimamente incaricato di stabilire quello che è giusto e quello che non è giusto. Dunque Zach non ha ricevuto questo incarico dalla federazione. Invece c'è Walter Mazzarri, che insomma, carattere toscano, e se l'è presa non poco per le parole di Mourinho, anche se ha provato a far finta di niente. Ha detto no, ma quello che dovevo rispondere alle bischerate ho già risposto domenica dopo la partita, eccetera. Però poi è entrato un po' più nel dettaglio. Se si dovesse stare attenti a fare veramente un calcolo, mettendosi da persone serie a tavolino e parlare di calcio, probabilmente i miei risultati sono superiori ai suoi. Se il venerdì un allenatore ancora parla della partita precedente, vuol dire che siamo diventati forti, importanti. Vuol dire che quella partita probabilmente se la ricorda ancora dopo 6 giorni. I giocatori, anche senza allenatore, fanno risultati da solo, e questo, lui ha questo privilegio di avere una super corazzata, di avere grandi giocatori che, anche se non l'allenatore non allena molto, probabilmente le vincono già da sole le partite, no? Quindi io no, io questa fortuna non la ho. Questa non è male, eh? Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Mirko, grazie. Ciao a tutti voi, ciao. Questa è la migliore delle repliche di giornata, delle sassate di ritorno a Mourinho, eh? Sì, erano attese, diciamo così, no? Perché quando parla Mourinho poi non è che, sì, che non arrivino controrepliche, viste le provocazioni, quindi... Quindi tutto previsto, tutto come da pronostico e da copione. Eppure Mirko, io prima dicevo, mi diverte molto Mourinho in versione provocatore di ieri. Mi divertono ancora di più quelli che se la prendono a morte in questa maniera, quando mi sembra che l'obiettivo sia il solito, no? Ormai chiarissimo e scoperto, cioè quello di fare da parafulmine isolando la squadra nei 5 giorni che valgono la stagione. Centro, come si dice. Centro. Cosa dici? Hai fatto centro, guarda caso siamo a pochi giorni dalla gara fondamentale di questa stagione, è diventata importantissima anche Inter-Sampdoria dopo i 2 pareggi consecutivi e diciamo la marcia al momento inarrestabile della Roma, e lui cosa fa? Puntualmente, secondo copione, attira su di sé tutto quanto, comincia ad attaccare a destra e a sinistra e come d'incanto la squadra esce da eventuali pressioni, diciamo, chiamiamole così, agonistiche. È uno schema fisso, è uno schema finora vincente, è un modo di comportarsi che conosciamo benissimo, però insomma ci cascano sempre un po' tutti, come dici tu. Sì, paratona di Cech su una conclusione del Wolverhampton, sempre 1-0 per il Chelsea, gara che interessa da vicino i tifosi dell'Inter e i tifosi italiani, come dicevo prima. Anche quella storia degli arbitri dopo il derby era stato chiaramente un giochino con questo intento, cioè quello di tenere alta la pressione e l'attenzione di una squadra che francamente non vedo come possa perdere il campionato. Guarda, in Italia non esiste ancora, diciamo, la figura a 360 gradi dell'allenatore manager inglese, no? L'allenatore che fa anche il mercato. E allora Mourinho si è inventato un'altra figura, l'allenatore dirigente. Cioè fa sia l'allenatore che il dirigente. Allora quando vede qualcosa che non va o quando teme qualche cosa, lui attacca per portarsi avanti. Con gli arbitri l'ha fatto più di una volta, a volte anche sfiorando, il ridicolo è una parola un po' grossa, però insomma andando a cercare situazioni che magari in precedenza avevano favorito la stessa Inter. Sì. Però è proprio uno schema fisso, è un allenatore che non si limita a fare l'allenatore, ma è anche forse il primo dirigente sotto il presidente dell'Inter. Sì, mi viene da sorridere anche pensando a quanto ha scritto oggi sul tuo giornale Paolo Condò, invocando una sorta, ma giustamente, con tutte le ragioni del mondo, una sorta di tifo di unità nazionale per l'Inter, perché abbiamo bisogno come calcio italiano di fare strada in Europa, perché siamo a rischio per quel quarto posto in Champions League. La vedo duretta, gli juventini che tifano Mourinho, sì, o i milanisti. Certo, hai ragione, ma anche perché il calcio in Italia, diciamo che resiste a livello di passione grazie ai campanili, diciamocelo chiaro, certo, e tondo. Certo. Perché come una battuta molto felice di Diego Abbattantuono di qualche tempo fa, che diceva: se nel calcio non puoi tifare contro, hai perso gran parte del divertimento. È vissuta nel modo giusto, ha ragione lui. Il tifo contro è una delle cose più divertenti del lunedì, insomma. In assoluto, se no probabilmente non avremmo un lavoro. Bravissimo. Molti di noi non avrebbero un lavoro, Mirko. Senti, ti chiedo un attimo di pazienza perché ho un breve stacco sul traffico, poi vorrei chiederti altre due cosette. Una anche su Leonardo, che oggi ha detto delle cose mica da poco, è un sussulto di orgoglio. Traffico. Strade in diretta. Ancora difficoltà sulla 10 in Liguria, nei pressi di Arma di Taggia verso Ventimiglia, dopo un incidente che si è verificato questo pomeriggio. Sulla 22 del Brennero, code di 2 km per un cantiere tra Bolzano Nord e chiusa Val Gardena verso l'Austria. Chiuso in entrata anche lo svincolo di San Michele in entrambe le direzioni. Resta chiusa poi per lavori urgenti la 3, la Salerno-Reggio. Siamo tra l'Agrumego Nord e Monabitacolo in direzione Salerno. Al momento comunque non si conoscono ancora i tempi di riapertura. È tutto, ritorniamo tra circa mezz'ora. Tempo di sport. E se ne prende anche qualche ascoltatore, vedo già gli sms 349-238-6666, tipo: adesso aspetto Mourinho al varco, vediamo se la prossima volta la coerenza lo porta a parlare di qualche favore arbitrale, tipo il retropassaggio di Santon con il Cagliari. Favore arbitrale, quello sì, in una partita però, per la verità, una delle migliori partite giocate dall'Inter nell'ultimo periodo. Sempre collegato con me, Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport, con cui volevo condividere una mia impressione. Cioè, credo che sia, in prospettiva Chelsea, Mirko, la migliore Inter di Moratti, questa, a mio giudizio, la migliore delle Inter costruite da Moratti, che arriva una volta tanto, secondo me, nelle migliori condizioni a giocarsi la partita della vita. Detto questo, giocherà con la maglietta di piombo, come al solito, perché è un gorilla europeo che le abita ormai da tempo sulla spalla. Direi che è una fotografia, un'analisi perfetta la tua. Questa è la migliore Inter in assoluto dell'era Moratti, la più equilibrata, la più completa. Diciamo che forse non ha il picco del fuoriclasse del passato, quando c'era Ronaldo, quando c'era il miglior Vieri, sì. Però questa è una squadra che non è debole da nessuna parte, è una difesa fortissima, un centrocampo forte e tecnico, ha un attacco che ti dà mille soluzioni, perché quei quattro attaccanti là davanti ti danno mille soluzioni. E detto questo, hai ragione tu, c'è il problema psicologico di un'Europa che non è mai stata digerita e che non è mai stata sfruttata neanche nei momenti di particolare fortuna. Mi riferisco al quarto di finale col Villarreal, non ti ricapiterà mai più, sì, di avere un quarto di finale col Villarreal. È un pizzico anche, diciamo, di sfortuna, come la famosa semifinale col Milan, quando all'ultimo minuto Abbiati fece quel miracolo su Callone. Allora magari molta della storia nell'azzurra europea sarebbe, sì, sarebbe cambiata. Oltretutto, non dimentichiamoci che l'Inter di fronte ha, secondo me, la candidata numero uno alla vittoria con il Barcellona della Champions League, squadra completamente diversa da Barcellona, ma altrettanto forte con altre caratteristiche, ovvero quelle della potenza, della personalità, dell'abilità di alcuni suoi giocatori, che è straordinaria. Totalmente è un d'accordo. Compito molto difficile, però è vero che se non ce la fa l'Inter davvero non ce la fa nessuno a portare avanti l'Italia in Europa stavolta. Totalmente d'accordo, Mirko. Prima di salutarti volevo invece strapparti un commento, saltando il fosso di Naviglio di Milano, su quello che ha detto oggi Leonardo, che per la prima volta finalmente ha avuto un sussulto di orgoglio dopo le parole di ieri lette ovunque del suo presidente, di Silvio Berlusconi. Questo Milan non gioca bene. Leonardo oggi ha risposto in questo modo. Se il presidente oggi ritiene che mi devo mettere da parte, basta una parola. La società non sarà mai lesata con questo, non avrà neanche un costo aggiuntivo, perché il giorno che si decide questo, il giorno dopo io non ho problemi di contratto, di pagarmi contratto, la società non pagherà mai due allenatori, questa cosa è chiara dall'inizio, io non ho nessun problema. La squadra, secondo me, ha prodotto un gioco in un certo periodo straordinario e questo va difeso. La squadra contro il Manchester ha giocato meglio del Manchester. E questo va difeso. Dopo, quello che vogliamo tutti è vincere. Ci mancherebbe altro, voglio anch'io. Credo che voglia il presidente, vogliono tutti. Però le cose vanno anche analizzate con la logica. Io oggi ho un ruolo e lavoro dentro il mio ruolo, con la mia autonomia, con la mia testa e con la mia libertà, che questa non la perderò mai. Mai. Possono dire quello che vogliono e chi vorrà dire può dire. Però la mia libertà è molto chiara. Lo sappiamo tutti. Fatti chiari. Poi la stella ha ragione, Leonardo, stavolta ha totalmente ragione, insomma, voglio non per soldi ma per amore e per la mia libertà. Il Milan straordinario magari forse in certi momenti, se a questo Milan si chiede di vincere il campionato italiano battendo l'Inter e si chiede di vincere la Champions League, si è sbagliato indirizzo, non ci vuole Leonardo ma qualcuno un po' più su. Sì, sono d'accordo con te. Direi che anche, anzi, io ti dirò che Milan straordinario, mai, obiettivamente straordinario. Sì. È una squadra con la quale Leonardo ha fatto miracoli, secondo me, fino adesso, tanto di cappello a lui, che ha avuto anche l'onestà di confermare quelle che in realtà erano voci filtrate, perché non erano dichiarazioni dirette, erano voci filtrate. Rispondendo così, Leonardo ha di fatto confermato che quel messaggio è arrivato anche a lui e comunque tanto di cappello, è schiena dritta, è forse più dritta di quello che mi aspettavo, ecco, quindi non saprei trovare niente da andare contro a Leonardo in questo caso qua, non troverei niente, insomma, nella maniera più assoluta. Ha assolutamente ragione e sta facendo miracoli con questa squadra. Io faccio sempre un esempio. a un certo punto Leonardo si è trovato con una difesa composta da Abate e Antonini sulle fasce, e centrali stava bene solo Thiago Silva, o turno Thiago Silva e Nesta. Ecco, una difesa simile, se l'andate a proporre a una qualsiasi delle grandi, cioè a Inter o Juventus, ti ridono in faccia. Esatto, bravissimi, ci siamo intesi. No, ma poi Milan, insomma, c'è stata un po' di confusione sul Milan, sta facendo una grande stagione rispetto all'organico, poi qualcuno ha cercato di vendercela come la stagione dei miracoli, come la squadra risorta, come la squadra che poteva competere su ogni fronte, quando chiaramente non era così. Sottolineavo una similitudine di risultati in termini numerici, di classifica, rispetto tra questo Milan e quello di Ancelotti. Qualcuno mi ha detto, bravo, però l'anno scorso Ancelotti aveva Kakà. Sì, però non aveva Nesta e Thiago Silva di quando stava bene, non aveva Boriello, quindi insomma, sia lì, no? Come valore assoluto della squadra. Sono d'accordo con te, guarda. Sta facendo molto bene, ho trovato ai limiti del miracoloso anche il primo tempo giocato contro il Manchester United. Sì, assolutamente. È stato un primo tempo ai limiti del miracoloso. Anzi, se il Milan commette una distrazione in meno, resta ancora abbondantemente in vita pure contro una corazzata come il Manchester United. Per quello io penso che Leonardo meriti tutto il rispetto anche dei vertici più alti della sua dirigenza. Insomma. D'accordissimo. Mirko, grazie, buon lavoro. Grazie a te, ciao. È stato un piacere. Giornata. Grazie Mirko Graziani, inviato dalla Gazzetta dello Sport. Adesso una gran voglia di cominciare a parlare con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde. Claudio da Bologna, Lorenzo da Milano, i primi due in linea. Intanto il Chelsea salva la buccia contro un Wolverhampton che sta mettendo i Blues alle corde. Altro salvataggio pseudo miracoloso della difesa del Chelsea su quello che sembrava un gol già fatto. Chelsea conduce 1-0, 65esimo gol di Drogba, è partita molto importante in termini di classifica per i Blues, visto, lo ripeto, la sconfitta dello United per mano del solito Everton, 3-1 in rimonta dopo il gol di Berbatov. Claudio, Bologna, buonasera. Buonasera, dottore. No, dottore, va bene. Innanzitutto, complimenti. Grazie. Io non sono un tifoso sfegatato, ma sono un simpatizzante del Bologna. Non è facile parlare di una squadra, fra virgolette, provinciale, però per quanto riguarda Mourinho vorrei spezzare, se possibile, una lancia, nel senso che e noi abbiamo l'impressione, anche seguendo le trasmissioni qui a Bologna, che comunque le provocazioni che fa Mourinho non siano provocazioni banali. No, quando parla di aree di 25 metri per la Juventus, dice una grande realtà. Per essere molto chiari, sono più di 20 anni che il Bologna non vince con la Juventus in casa. Domani ci prova però. E domani ci prova, sì. E francamente in questi 25 anni ne abbiamo viste di tutti i colori, gol con le mani, rigori impossibili. Quindi voglio dire, una mia testimonianza, Mourinho invece è stato applaudito per la sua squadra e per quello che dice, perché non credo che sia una persona banale e nonostante le provocazioni non dice delle cose banali. No, non la ringrazio dice. Dell'attenzione. No, ma grazie a lei. Claudio, volevo chiederle una cosa, poi parlo di Bologna in un'altra veste. Questa sera Bologna, domani c'è la Juventus, però stasera è una sera speciale per Bologna cestistica. Sì, io sono dell'altra sponda, a dire la verità, perché sono tifoso Fortitudo, quindi non so cosa augurarmi, ma sportivamente chiaramente. Ma proprio per lei tifoso Fortitudo? No, ma proprio per lei tifoso Fortitudo, c'è il derby. Ah, beh, c'è Lozano. Certo, c'è gira Fortitudo, torna lo storico derby di Bologna e c'è il tutto esaurito, mi sembra un fatto straordinario, il tutto esaurito al Paladozza per questa partita di Serie B di A dilettanti, quindi giornate specialissime. Ma guardi che già vedere la Fortitudo in Serie A dilettanti ci sono 4.000-4.500 persone. Lo so, poi il derby lo so. Con Lozano è particolarmente interessante perché non c'è rivalità, c'è un gemellaggio fra le tifoserie, quindi è una cosa molto bella. È la terza torre Lozano cestisticamente di Bologna e noi lo guardiamo con molta simpatia. Grazie Claudio, è stato un piacere. Grazie. A presto. Intanto il Chelsea raddoppia, indovinate chi ha segnato? Mandatemi un SMS indovinando chi ha segnato il raddoppio per il Chelsea al 68esimo minuto. È facilissima la domanda, ve lo dico tra un paio di minuti dopo che avrò controllato gli SMS. Lorenzo da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io volevo sapere una cosa. Mourinho ormai è in Italia da 2 anni. Sì. Giusto? Da quando è arrivato fino a ieri, tutte le settimane, o in settimana o a fine settimana, dopo la partita, in un modo o nell'altro attacca qualcuno. Voi dite intelligentemente, tutte le settimane attacca qualcuno, a volte anche in modo molto offensivo. A volte sì, A volte sì. Molto offensivo. Una delle ultime al presidente del Napoli, i mafiosi parlano così. In che senso? Quale delle nei confronti? Gli ha dato del piccoletto al, sì, presidente del Napoli, ha dato del piccoletto. Sì. Non dico cosa ha detto di dirigenti della Juve, di quelli del Milan, di Ancelotti, di Ranieri, tutti. Non escludo nessuno, perché ha parlato male di tutti. E voi mi dite che dice cose intelligenti. Andiamo a riprendere tutte le cose che ha detto. L'ascolto volentieri, però c'è un diritto di replica, no? Sembra che ci siano delle schermaglie dialettiche. Poi è chiaro che in alcuni casi non è intelligente, ma è solo gratuitamente provocatore quando scende in questi dettagli e quando dice queste cose, e in questo senso ha ragione. Ne faccio però un discorso generale. Secondo me sono mind games, come dicono gli inglesi, che ci possono stare, perché io trovo anche sbagliato quanto ha detto Bette, che Mourinho ha sottolineato, ma guardi in casa sua. Io ho avuto ragione nel dire, e allora di Fiorentina Bari non parla nessuno, parliamo di altro. Insomma, sono giochi dialettici che secondo me ci possono stare, al netto di non scadere nell'inelleganza, come lei ha ragione a sottolineare, in alcuni casi ha fatto. Posso? Sì, può dire quello che posso vuole. Replicare. Prego. Ma il problema è proprio questo, cioè tutti possono parlare, ci mancherebbe altro. Tutti possono dire il rigore della Juve non c'era, quello che hanno dato contro nell'ultima partita contro Genova. Certo, dopo tre volte che vedi il replay però vedi che non è rigore, perché... A me è sembrato abbastanza chiaro al primo. Lasciamo perdere il lato calcistico. Sì. Cioè, rigore, non rigore, quello che ci può essere, quello che non ci può essere. Io parlo di comportamento di Mourinho come persona. Io sono juventino. Sì. Abbiamo prima sentito parlare Leonardo. Non un signore, un gran signore, ma veramente un gran signore. Tanto di cappello. Tutte le volte che parla, tanto di cappello. Sento parlare Mourinho. Se io dovessi fare... Cioè, se Lippi avesse fatto negli ultimi anni discorsi che sta facendo Mourinho, ma cosa avreste detto a lui? Voi, cioè, no, io mi scusi, mi infervoro perché è incredibile. Io non riesco a capire perché voi vi bagnate. Io non capisco perché voi vi incazzate in questa maniera quando Mourinho. Ma perché? Perché trovo interessanti queste dichiarazioni piuttosto che dire la palla è rotonda e chi gioca meglio vince, quanto sono bravi quegli altri, quanto sono bravi questi. Ci dà degli argomenti di cui discutere, e in alcuni casi, non sempre, mi pare che dica anche delle cose intelligenti. Se poi ci sentiamo toccati nel vivo come tifosi viscerali, io non posso farci nulla. Io non sono tifoso viscerale, non lo sono neanche tiepido, e quindi di queste cose mi piace parlare. Trovo interessante sentire un allenatore che finalmente ogni tanto dice qualche cosa. Ciro Montecatini, buonasera. Buonasera. Dica. Ma dunque, sono un tifoso viscerale, però sono più tranquillo. Niente, telefonavo per Leonardo, perché io, ecco, i due allenatori di Milano, Leonardo e Mourinho, sono milanista, chiarisco. Mi tengo molto stretto Leonardo perché... Come persona anch'io, Ciro. Leonardo è un uomo di enorme intelligenza e oggi ha dato una risposta strepitosa alle critiche. Detto molto... questo, mi diverte Mourinho e non trovo nulla di scandaloso normalmente in quello che dice. Prego. Però volevo dire una cosa. Io sono molto grato al presidente Berlusconi, perché se non fosse intervenuto lui non solo saremmo falliti nell'86, ma non avremmo vinto tutto quello che avremmo vinto. Quindi un presidente ha il diritto magari di criticare, ma non in questo caso, perché come persona è sicuramente superiore moralmente a Mourinho, Leonardo, ma non solo come persona, secondo me come allenatore diamogli il tempo, perché Mourinho allena da qualche anno, Leonardo è il primo anno che allena. E sta facendo miracoli in questa squadra. Io penso che ma non voglio dare contro Mourinho, perché secondo me quando parla Mourinho il vero tifoso, non dell'Inter ovviamente, non lo dovrebbe neanche stare a sentire, perché mi sembra un po', ecco, una cosa da circo, ma senza offesa, ecco, sì, una cosa abbastanza goliardica quando parla sì, lui. No, no, non è goliardica, è un gioco preciso, Ciro. È un gioco preciso, è un gioco preciso, è una strategia precisa. L'avversario la prendo in maniera goliardica. Perché... Ma fa bene, ma è come deve essere presa, ma è come deve essere presa, è semplicemente no, diciamo discussione. Che non lo so proprio a sentire quello che dice. Ma fa bene. Però ecco, dico questo, a me non mi è simpatico Lippi, ma proprio per niente. Ma quando Lippi dice all'inizio del campionato che secondo lui la Juventus può vincere lo scudetto, secondo me quest'anno la Juventus aveva una rosa abbastanza forte per fare. E quello dice che c'è un complotto sotto. Ha sbagliato, fesserie enorme questa di Mourinho, anche questa credo in una strategia precisa, perché ripeto, quando fa cose come quella di ieri c'è sempre un fine preciso, in questo caso quello di fare il parafulmine e di isolare la squadra in giorni decisivi. È chiaro che l'aveva detto una fesseria, ma l'abbiamo detto tutti, l'abbiamo sottolineato tutti. Ci ha dato la possibilità anche a tutti quanti di dire ma che fesseria hai detto Mourinho? Tutti contro di lui, non so se sia il rumore dei nemici o qualcos'altro. Aveva detto una... ma mica dice sempre la verità, ci mancherebbe altro. In molti casi dice cose sbagliate o cose distorte o cose che gli fanno comodo, ma come tutti noi. Io sono appassionato di basket, come sapete, non so se vi ricordate negli anni 80 le diatribe dialettiche, in alcuni casi feroci, che c'erano tra Dan Peterson, nostro opinionista di basket ogni venerdì, e Valerio Bianchini. Quelle diatribe dialettiche di grande intelligenza e di grande violenza verbale in alcuni casi hanno fatto la fortuna della pallacanestro italiana. Non capisco perché ci si debba scandalizzare in questa maniera se un allenatore utilizza espressioni fuori dalle righe o dice qualcosa di non particolarmente gradito alle opposte fazioni, mettiamola così. Avete ragione, Drogba of course, scrive Giacomo, raddoppio del Chelsea, non è Terry come scrive un altro, non è neanche Ancelotti con un destro da fuori area come in Milan Real dell'89, è Didier Drogba, doppietta per lui, Chelsea 2 Wolverhampton 0, 75esimo. Ci fermiamo un attimo. Con grattacieli sempre più alti si corre il rischio di un rallentamento della rotazione della Terra a causa dell'attrito con l'aria? Sono Federico Pedrocchi e con la redazione di Möbius vi porto tutta la scienza, quella strana, affascinante, quella divertente, la scienza difficile che cerchiamo di spiegarvi. Vi aspetto qui a Radio 24, ogni sabato dalle 20 alle 21, ogni domenica dalle 23 alle 24. Mi rado, mi doccio, mi asciugo, mi vesto, mi mangio qualcosa, mi precipito fuori, via Diaz, via Senato, piazza Fiume, via Nitti, via Reni, via Girombelli, piazza Roncisvalle, via Po, rotonda, incrocio, pedone, frenata, di nuovo rotonda, seconda a destra, sottopasso, semaforo, piazzetta, parcheggio, non trovo, parcheggio, ufficio, caffè, riunione, pranzo e banca! Siete arrivati in banca così in fretta e in tanti che l'offerta di obbligazioni Enel si è chiusa in anticipo. Grazie per averci dato fiducia e per aver contribuito al successo dell'operazione. Enel, l'energia che ti ascolta. Oggi il presidente Mandela assume l'incarico a Pretoria. Candidato a due premi Oscar, Morgan Freeman. Questa nazione ha fame di grandezza. Matt Damon. Questo è il nostro destino! Il nuovo capolavoro di Clint Eastwood, Invictus, al cinema. Palleggio frenetico, passaggio corto, palla che schizza a destra, a sinistra, in alto, no, in basso, fallaccio. La palla vola, finta di corpo, all'ala, al petto, magico recupero a centrocampo. L'ha recuperata, ma dove va? Dove va? Credit Reforma. Con più di un secolo di esperienza, recupera i tuoi crediti nel mondo con efficacia, velocità e talento. Chiama il numero verde 800 425 325 oppure collegati a creditreform.it. Quando Credit Reforma entra in azione, non perde mai la palla. Il Sole 24 Ore presenta Un anno di norme e tributi e l'esperto risponde. L'archivio 2009 su CD-ROM di tutti gli articoli fiscali e normativi e la raccolta completa delle risposte degli esperti. Da lunedì con Il Sole 24 Ore a 35 euro in più. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. La domenica vedrà prevalenza di bel tempo sull'Italia per gran parte della giornata. Intanto domani mattina, infatti, cielo sereno poco nuvoloso con qualche banco di nebbia, però tra Est Lombardia, Veneto ed Emilia. Le ultime piogge interesseranno solo la Calabria tirrenica. Poi nel pomeriggio nubi in graduale aumento al nord-ovest, in Toscana e sulla Sardegna, ma con pochi fenomeni, al più qualche debole pioggia interesserà il ponente ligure e delle nevicate sono attese sulle Alpi marittime. Altrove tempo in prevalenza bello e soleggiato, ma con venti moderati di maestrale che insistono sui mari meridionali. In serata peggiora per una nuova perturbazione con piogge in tutto il nord-ovest, sulla Toscana e sulla Sardegna, neve sulle Alpi centro-occidentali, anche a bassa quota nel Cuneese. Sarà una mattinata più fredda, le temperature massime sono previste stazionarie o in lieve diminuzione. È tutto, per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. Vodafone partita IVA, buongiorno, sono Enzo. E sono Carla, ho un negozio di fiori e spendo troppo in telefonate. Cosa mi consiglia? Beh, la nuova offerta Parla Facile. Tutte le chiamate che le servono e il cellulare è incluso. La pagherà profumatamente. Al contrario, sentirà che risparmio. Passa a Vodafone partita IVA. Entro il 31 marzo puoi avere Parla Facile al prezzo speciale di 25 euro al mese. Un vero affare per chi ha la partita IVA. Per limiti, condizioni e costi vieni su Vodafone.it o chiama l'800 127 777. Vodafone. C'è chi lancia uno stile. Spostatevi tutti! Quest'anno lanciamo l'argento! E chi più semplicemente lo vive. Classe B Blue Efficiency Executive, da 21.990 euro a tasso zero, con eco-incentivi alla rottamazione Mercedes-Benz, TAN 0%, TAG 0,78. Massimo finanziabile 15.000 euro. Salvo approvazione Mercedes-Benz Financial Services Italia. Negli showroom Mercedes-Benz. Info su mercedesbenz.it. Sveglia, mi sveglio, mi lavo, mi vesto, mi trucco e parrucco, lavatrice, caffè e colazione per tutti, tutti fuori, sveglio il piccolo, protesta, lo vesto, protesta, lo porto all'asilo, protesta, lo bacio, protesta, poi l'autobus, tram, caffè, mail 37, le leggo e rispondo, tre contratti in inglese, francese e tedesco, macelleria, lavanderia, calzolaio, due riunioni e banca! Siete arrivati in banca così in fretta e in tanti che l'offerta di obbligazioni Enel si è chiusa in anticipo. Grazie per averci dato fiducia e per aver contribuito al successo dell'operazione. Enel, l'energia che ti ascolta. Corot e l'arte moderna, una grande mostra promossa dal Louvre e dal Comune di Verona alla Gran Guardia fino al 7 marzo. I capolavori di Corot a confronto con la tradizione del paesaggio classico e con i maestri dell'impressionismo e del Novecento. Da Monet a Cézanne, da Braque a Picasso. www.corotverona.it. Tempo di sport. Non un grandissimo Chelsea, onestamente, quello che sto vedendo, 80esimo, vince 2-0 sul campo del Wolverhampton, che però in questo secondo tempo avrebbe prima ampiamente meritato il pareggio e ora avrebbe meritato quantomeno di segnare, anche perché sta discretamente assediando la porta di Cech, che in un paio di occasioni si è salvato con grande difficoltà. Caro Joe Di Varese, io mi metto dalla parte di chi è stato provocato e poi vorrei vederla rimanere calmo, come dice lei, divertito. Mi metto dalla parte di chi è stato provocato, ad esempio Mazzarri, che infatti ha risposto con la sua verve in questo confronto dialettico che è stato stimolato ancora ieri dall'allenatore dell'Inter. Prima citavo Peterson e Bianchini, la verità è che il campionato italiano, che il calcio italiano ha un Peterson, forse non ha un Bianchini all'altezza, non so, così mi viene da dire. Maurizio da Bari e Ezio da Brescia, due ascoltatori, poi vi diamo qualche anticipazione sulla giornata di campionato che è 25esima, che stiamo per vivere. Maurizio, buonasera. Sì, sono io? È lei? Buonasera. Sì. Era una lei. Piccola correzione, dica. Da Catania. Ah, allora c'è un errore sul mio display. Dica. Vabbè, non importa. Da Catania, dica. Sì, senti, io più che una domanda volevo un attimino tornare sull'argomento Mourinho, perché sentivo poco fa vari giudizi, eccetera. Io non faccio sconti, non sono tifoso dell'Inter, sono un tifoso della Roma che vive purtroppo lontano dalla capitale. Sì. Però a Mourinho, finché non arriva almeno in semifinale di Coppa di Champions League, io sconti non ne faccio, mi dispiace, tutto il resto sono solo chiacchiere. Che poi le sue affermazioni siano intelligenti, curiose, provocatorie, ok. Uh-huh. Ma sa perché, a mio avviso? Perché gli altri non hanno il coraggio di dire nulla. Bravo. La maggior parte dei suoi colleghi. Bravo, esatto. No, degli emeriti ipocriti. Per cui no, ma ipocriti, paura, ma ipocriti no, semplicemente non, nella nostra mentalità si ha molta paura ad esporsi in questo modo, quindi... c'è Mazzarri che oggi ha dato una risposta abbastanza piccante, abbastanza divertente a quanto aveva detto ieri Mourinho. Non parlerei di ipocrisia, parlerei di di modo di vivere il calcio italiano un po' troppo trincerato dietro alle paure, forse, no? Sì, però ripeto, se gli altri fossero, usassero un po' di più, gli altri colleghi allenatori italiani e stranieri, probabilmente ci sembrerebbe meno intelligente, meno provocatorio quello che dice Mourinho. Il livello è molto basso delle affermazioni dei colleghi, sono tutte di circostanza. Sì, ma è vero, ecco, nella maggior parte sono di circostanza, ha ragione, dica. E poi come tifoso della Roma, me lo lasci dire, in questo anch'io sono di parte, però mi piace dirlo perché tutti dicono qualcosa. Io quando vedo le partite della Roma che gioca a Milano contro l'Inter o viceversa, quello che mi dà fastidio non è tanto il rigore non dato, gli arbitraggi dove Cambiasso non viene mai ammonito, i falli di Cordova non vengono ammonito, cioè tutte le altre squadre, comprese la Roma, che a mio avviso non è più una grande, dato il suo piccolo budget, i suoi problemi economici, appena fanno due falli, immediatamente ammoniti i giocatori. Non vedo lo stesso trattamento che i giocatori dell'Inter, che oltre ad essere forti fisicamente, secondo me sono anche molto fallosi. E in Europa, infatti, l'Inter fa quelle figure che fa per questo motivo. Insomma, non so se per questo motivo, Maurizio. Certamente, allora io anche qui torno alla pallacanestro. Lei sa benissimo, se segue il basket, quante cose si dicono su Siena tutelata, protetta, timore reverenziale nei confronti della squadra più forte. Tutto questo esiste, e anche questo fa parte del gioco dello sport, io credo, quindi. Insomma, si è sempre detto, sono cose sempre dette, in parte anche vere. Ezio da Brescia, buonasera. Buonasera a lei, buonasera, e la ringrazio di avermi richiamato. Intanto mi permetta, così in modo virtuale, di stringerle la mano, perché lei mi piace molto il modo che ha di affrontare e di disquisire di sport. Grazie. Tifoso di pallacanestro anch'io, ma ex giocatore e appassionato di basket. Siamo in buona compagnia. Ecco, perfetto, è per quello che forse la stretta di mano è più vigorosa di quella che dovrebbe essere da calciatore o da ex calciatore, ma senza nulla togliere agli tifosi delle altre squadre. Certo. Mi fa molto piacere che lei abbia detto: io ho 50 anni e seguo da pallacanestro, da ex giocatore, da giocatore prima e da appassionato poi, da almeno 35. Mi fa molto molto piacere che lei abbia citato Dan Peterson e Valerio Bianchini. Io ho avuto la fortuna di viverle quelle stagioni memorabili di quella pallacanestro. E hanno fatto grande la pallacanestro italiano. Bravissimo. Che adesso lei, perché lei ha dei problemi? Perché non c'è più gente di questo tipo? Bravissimo. Lei ha messo veramente a fuoco in modo straordinario l'atteggiamento Mourinho, chiamiamolo Dan Peterson, e X, chiamiamolo Valerio Bianchini. Io ho un caro amico allenatore di pallacanestro, ex giocatore, lo posso dire perché tanto non è pubblicità, che è Fabio Fossati, ex giocatore, adesso allena in Svizzera, ecco, perfetto, un grande amico, che mi ha detto una volta, lui è stato campione d'Italia con delle squadre di basket femminili, Comense eccetera, perfetto, bravissimo, mi ha detto: Ezio, io al mio livello cosa devo insegnare ai giocatori? Devo fare lo psicologo, devo riuscire a creare la squadra e il gruppo, non devo insegnargli un terzo tempo o come si tira in sospensione un giocatore che è alle soglie della nazionale o gioca addirittura in nazionale. La stessa cosa credo valga per l'allenatore Mourinho, che, come lei giustamente ha messo a fuoco prima, in questo momento ha due impegni importanti questa sera, e la partita di Champions, che è una sorta di spartiacque, certo. L'ennesima stagione, e anche per lui. Lui sta cercando di tutelare il più possibile la squadra buttando le orecchie delle telecamere da qualche altra parte. Ma chiaro, cosa il gioco faceva Dan Peterson, noi lo ricordiamo, bravissimo. E gli altri cascano con tutte le scarpe nel giochino di Mourinho e diventano pazzi, no? E diventano pazzi. Psicologo, questo qui non deve insegnare il 4-4-2 o a Giulio Cesar come si para un rigore, a Ronaldinho, piuttosto che a il cross come va fatto a Santon. Lui sta cercando di plasmare una squadra, e credo ci stia riuscendo, beato lui, con una società che patrimonialmente gli consente anche determinati investimenti. Certo. Cosa che magari il tifoso del Bologna è simpatico di prima, parlavamo di Gira sì, grandi ricordi, dico, non può vedere. Però dico, a questo punto è giusto secondo me valutare, come lei ha ben detto, l'atteggiamento dell'allenatore quale psicologo. In questo momento lui sta isolando la squadra, l'ha chiusa nel cassetto, si tira addosso tutti gli occhi delle telecamere, e come faceva Dan Peterson, che per me è stato un grandissimo faceva Dan Peterson, e dall'altra parte trovava il contraltare Bianchini e il basket italiano, boom, è esploso, è diventato grande. Adesso abbiamo tanti, con tutto il rispetto uso una parola che usò un tempo Bianchini riferita a Franco Casalini, vice di Dan Peterson, e poi andato in panchina, tanti Robocop, tutti uguali, che si sottraggono a qualunque tipo di confronto dialettico, perché è sempre meglio stare schiacciati e non rischiare sulla propria pelle. E quindi andiamo avanti così, questo fa rumore e gli altri provano ad arrangiarsi. Mi sembra che il gioco sia questo. Il gioco di Mourinho è questo, la squadra isolata stasera gioca contro la Sampdoria. Il farabutto è lui, si prende tutti gli strali, i fulmini e gli insulti, e cercherà di presentare un Inter in condizione contro il Chelsea. Grazie Ezio, Traffico e poi Giovanni Capuano con preview di Serie A. Mi rado, mi doccio, mi asciugo, mi vesto, mi mangio qualcosa, mi precipito fuori, via Diaz, via Senato, piazza Fiume, via Nitti, via Reni, via Girombelli, piazza Roncisvalle, via Po, rotonda, incrocio, pedone, frenata, di nuovo rotonda, seconda a destra, sottopasso, semaforo, piazzetta, parcheggio, non trovo, parcheggio, ufficio, caffè, riunione, pranzo e banca! Siete arrivati in banca così in fretta e in tanti che l'offerta di obbligazioni Enel si è chiusa in anticipo. Grazie per averci dato fiducia e per aver contribuito al successo dell'operazione. Enel, l'energia che ti ascolta. Strade in diretta. Procedono le difficoltà sulla 10 nei pressi di Bordighera verso Ventimiglia a causa di un incidente con più mezzi coinvolti. Sulla 22 del Brennero per un cantiere si viaggia in coda tra Bolzano Nord e chiusa Val Gardena verso il confine. Resta chiusa per lavori urgenti la 3, la Salerno-Reggio, tra l'Agronegro Nord e Buonabitacolo verso Salerno, e al momento non si conoscono ancora i tempi di riapertura. È tutto, ritorniamo tra circa mezz'ora. A tempo di sport. Tutti in mente che un giorno chiamo Coach Peterson, che tanto è il nostro ospite tutti i venerdì, ospite fisso, è uno di noi, e lo interrogo sull'arte della provocazione. Adesso invece da Giovanni Capuano voglio sentire come andranno in campo le squadre questa 25esima di Serie A. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, buonasera. Allora, dacci qualche anticipazione sul sabato del Villaggio. Allora, noi andiamo rapidissimi sulle due partite di questa sera. Intanto Genoa-Udinese, che inizia fra meno di un quarto d'ora, confermato il rientro dal primo minuto nel Genoa di Palacio, Genoa che conferma il 4-3-3, giocano Palacio, Acqua Fresca e Sculli davanti. Nell'Udinese confermato Quadrado, laterale destro di difesa, perché non c'è Basta, davanti ci sono Di Natale, Floro Flores con Sanchez e Pasquale esterni che agiranno vicini ai due attaccanti. Questa sera invece Inter-Sampdoria, non c'è ancora l'ufficialità, ma pare quasi certo il rientro dal primo minuto dopo 40 giorni di assenza di Stankovic, che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Thiago Motta, soprattutto perché Mourinho vuole provare la formazione anti-Chelsea, e da questo punto di vista, oltre al rientro di Stankovic, c'è il rilancio della coppia Milito e Eto'o in attacco, c'è il modulo che è il rombo con Sneijder alle loro spalle, e c'è Zanetti scalato a sinistra sulla linea di difesa, cosa che a Mourinho non piace, perché Zanetti era destinato a occupare una delle tre posizioni di centrocampo, ma Santon quasi certamente non ci sarà nemmeno mercoledì sera contro gli inglesi, e quindi Zanetti scala in difesa a sinistra e prova lì. Nella Sampdoria non ci sono novità, anche perché le assenze di Castellazzi e Cassano di fatto confermano implicitamente Storari in porta e Pozzi come spalla di Pazzini, mentre Guberti avrà una maglia da titolare a centrocampo come laterale di sinistro al posto di Manini. Questo per le partite di oggi. Giovanni, hai notizie di Santon e di Balotelli? Guarda, per quanto riguarda Balotelli, diciamo che l'esclusione anche dalla rosa dei possibili convocati mercoledì con il Chelsea è quasi certa. Su Santon si proverà in tutti i modi a recuperarlo, proprio perché Mourinho Zanetti lo vorrebbe impiegare a centrocampo, essendo tatticamente il giocatore più duttile e intelligente che ha in quel settore. Però è altrettanto vero che o Santon darà garanzie nella giornata di lunedì, in quello quello che di fatto è l'unico vero allenamento prima della rifinitura di martedì e della partita di mercoledì, oppure per lui al massimo ci potrà essere la panchina. Io ho l'impressione che la formazione di questa sera di Mourinho sia proprio la prova generale per la sfida di mercoledì contro il Chelsea. Consideriamo che Stankovic è fuori da più di un mese e quindi che dopo la Coppa d'Africa non ha più avuto continuità di utilizzo da parte del portoghese, quindi una prova generale che a Mourinho serve per capire se davvero può fidarsi di questi 11 uomini. Non invece la Juventus di Zaccheroni, che sembra uscita dalle secche, no? Tra quella vittoria sul Genoa, la vittoria in settimana in Champions League, Buffon che parla di aria nuova, qualcosa è cambiato, il vento è cambiato, le nuvole van via, insomma, che Juventus vedremo domani a Bologna? Allora, intanto una Juventus che non avrà Casels, Giovinco e Iaquinta, e nella quale sicuramente non giocherà dal primo minuto nemmeno Camoranesi. È stato convocato Amauri e questa è una mezza sorpresa, perché dopo la doppietta dell'Amsterdam Arena sembrava destinato a non essere nemmeno convocato perché colpito da sciatalgia. Oggi Zaccheroni ha detto che Trezeguet l'ha visto bene ma non ha i 90 minuti nelle gambe e quindi è probabile che in realtà i due si alternino durante la partita. È recuperato anche con Cannavaro, ma è recuperato e dovrebbe partire dalla panchina, così come Sissoko. Zaccheroni ha detto: è ovvio che da lui mi aspetto di più perché non è al meglio, è convocato, ma è facile che Zaccheroni, che ho già detto di essere un po' allergico al turnover, confermi il più possibile il centrocampo che ha sbancato lo stadio dell'Ajax. L'esperienza non si compra al supermercato, come fai a togliere a Mauri in questo momento? Ma va in campo anche con una gamba sola, mi sembra evidente. Zaccheroni fa benissimo da allenatore d'esperienza qual è. La Roma invece ha un incubo tra i pali, mi pare. Sì, ha un incubo tra i pali, anche se oggi Ranieri, dopo essere stato impegnato nel duello con Mourinho, in realtà ha speso l'altra metà della conferenza stampa a difendere Doni, messo in croce soprattutto dalla stampa romana, sì, dopo i 3 gol subiti ad Atene. Non ci sono Totti, Toni e ovviamente Giulio Sergio, che è il portiere titolare di campionato. Ranieri ha detto il blackout di Atene non è colpa di Doni, perché a Cagliari abbiamo avuto un blackout e lì Doni non c'era e non c'entrava, e quindi è quasi scontato chi sarà il portiere. Non l'ha ufficializzato, però diamo certamente Doni in campo. Non ci sono Toni e Totti, abbiamo detto, c'è però il recupero di Perrotta, che dunque giocherà al centro della linea 3 con Taddei e Giulio Baptista. La punta unica sarà Vucinic, in difesa rientra quasi certamente Mexès, e un turno in panchina per Burdisso, anche perché Mexès calpita, vuole giocare di più, sì, e da quando è arrivato l'argentino lo sta facendo un po' meno rispetto a quelli che erano i suoi standard. Che la Fiorentina è sotto shock, che squadra ti aspetti? Fiorentina sotto shock, anche se oggi Prandelli ha garantito che del Bayern non si è più parlato dopo le polemiche delle 24 ore successive alla sfida di Monaco. È una Fiorentina che non può sottovalutare la partita contro il Livorno, perché è l'ultima chiamata per capire se si può restare attaccati al treno dell'Europa e poi da aprile in poi giocarsi la qualificazione alla Champions o quantomeno all'Europa League. Fiorentina che ha dei problemi a centrocampo, problemi che valgono la conferma della coppia Bolatti-Donadel come centrali, mentre Cristiano Zanetti, che è recuperato, partirà soltanto dalla panchina. Davanti c'è fondamentalmente la formazione titolare con Marchioni, Jovetic e Vargas alle spalle di Gilardino. Prandelli ha detto di temere molto Lucarelli, anche perché i problemi la Fiorentina ce li ha in difesa, dove a questo momento non è ancora certo il recupero di Natali. Potrebbe giocare centrale Comotto oppure Prandelli far spazio a un giovane della primavera. Estrema emergenza. Grazie Giovanni. Grazie a te. Alla prossima, grazie a Giovanni Capuano. Io molto rapidamente vi do i risultati della giornata di Serie B, che sono quelli: Cittadella batte Regina 1-0, il Vicenza vince 5-0 a Gallipoli, il Torino perde in casa 3-2 con la Salernitana, Triestina-Cesena 0-0, Ancona-Padova 2-2, Frosinone batte Empoli 3-1, Mantova batte Sassuolo 2-1, e quindi anche questi risultati molto pesanti in termini di classifica. Grosseto che vince 2-0 a Modena, Piacenza batte Albino Leffe 1-0, Lecce 46, Sassuolo 45, Grosseto 43, Brescia 42 e via via tutte le altre. Chiuderei con le Olimpiadi, ancora 3 minuti per parlare di un piatto azzurro che mi sembra pianga un po'. Dario Puppo, buonasera. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Effettivamente è così, e insomma, tanto per tornare sulla gara di ieri, quella forse più attesa, che era il Super G maschile, gli italiani avevano francamente il miglior pettorale possibile, non l'hanno sfruttato a pieno. Non voglio essere salire tra virgolette sul carro dei critici, francamente, però al di là della sfortuna che c'è, perché comunque sembra quella che ci portiamo dietro dai mondiali della Val d'Isère, dove sono arrivati soltanto i quarti posti o comunque i piazzamenti ridotti nelle medaglie, è un trend che continua. Speriamo che possa essere poi interrotto dalle gare delle discipline tecniche, sì. Però è stato sfortunato per Phil, il suo discorso è un po' a parte, visto che ha fatto praticamente due gare con quella di ieri in stagione. Innerhofer si è mangiato una bella occasione, Hell ha fatto una gara in rimonta, ci sono sicuramente delle attenuanti, c'è anche delle attenuanti, che però resta una delusione condivisibile, Dario, la tua, resta una delusione condivisibile, perché c'è modo e modo per leggere comunque una medaglia di legno, quale quella che è arrivata ieri, insomma si poteva fare di più, mettiamola così, se vogliamo fare i professori. Dario, invece sullo sci stretto? Sullo sci stretto direi che la gara chiave è la team sprint, dove la Follis però non mi sembra in forma come lo è stata soprattutto nel momento del Tour de Ski. C'è una Genuine veramente in palla, che ha ottenuto addirittura la finale nella sprint classica, che non è propriamente quella adatta agli italiani. Stasera è ovvio che ci giochiamo altre possibilità nel doppio inseguimento maschile, dove Northug deve rispondere presente, dire agli altri campioni norvegesi, sono anch'io, perché è l'unico dei grandi che non ha ancora vinto la medaglia d'oro insieme a Bjørndalen, perché Svindal e la Bjørgen stanno veramente facendo vincetta di medaglie pesanti per la Norvegia, che insegue il primo posto nel medagliere. Noi credo che insomma la carta più pesante ce la giochiamo forse con Dicenta, visto le medaglie che ha ottenuto, anche Pietro Pilarcotter, l'argento nella 15 skating contro il tempo. Però non è semplice, sinceramente, gli avversari sono tanti, sarà difficile, anche perché il finale della gara, soprattutto della pista di Whistler Mountain, a Dicenta non va tanto giù. Lui però quando si lamenta solitamente poi dopo fa risultato, vedremo. Speriamo che mantenga questa promessa. Grazie Dario, alla prossima. Alla prossima. Grazie a Dario Pupo, noi chiudiamo qui il nostro programma. Ringrazio Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, Paolo Corleoni in regia. Vi aspetto domani dalle 5 alle 7. Aspetto naturalmente tutti gli ascoltatori che oggi non sono riusciti a intervenire, mi spiace, perché la discussione che riprenderemo domani era estremamente interessante. Dunque vi aspetto domani dalle 5 alle 7, ricordate.